America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. So for those who doubted our capacity to carry out this operation, I want to be clear. The United States of America has done what we said we would do. Barack Obama ha pronunciato ieri notte alla Nazione il suo discorso più completo sulla crisi in Medio Oriente e ha dato un messaggio a coloro che potessero dubitare della sua determinazione e di quella americana. Abbiamo fatto quello che abbiamo detto avremmo fatto, ha detto il presidente in un discorso simbolicamente pronunciato dalla Defense University a Washington, un messaggio dunque per coloro, per altri dittatori che in Medio Oriente possono immaginare di farla franca e di reprimere le manifestazioni di libertà, di democrazia dei loro giovani, di reprimerle, dicevo, con la forza. We must always measure our interests against the need for action. But that cannot be an argument for never acting on behalf of what's right. Ci sono molti aspetti interessanti in questo discorso. Uno di quelli che mi ha colpito di più è che indirettamente il presidente di fatto ha detto che il colonnello Gheddafi cadrà sotto lo stilicidio dell'azione militare degli alleati e sotto la tremenda pressione dell'isolamento, ma non ci sarà un'operazione di terra per defenestrarlo. L'azione militare resterà limitata, l'America continuerà a fare un passo indietro lasciando il comando alla NATO. Questo passaggio è stato criticato da alcuni, è stato criticato in particolare dal senatore McKay, nel quale si è domandato subito dopo l'intervento del presidente che bisogno ci fosse di dare un messaggio così rassicurante al colonnello Gheddafi. And then he made a very puzzling comment, and that was regime change by force would be a mistake. Gheddafi must have been somewhat comforted by that. It was then, at least to some degree, a counter to the present statement that Gheddafi must go. And if we end up in a situation where Gheddafi is able to cling to power, then we could easily see a reenactment of what happened after the first Gulf War. Ecco, in questo passaggio McCain sostiene appunto che il rischio è quello di lasciare Gheddafi in una posizione di potere per alcuni anni, come già capitò con Saddam Hussein in Iraq. Born as we are, out of a revolution by those who longed to be free, we welcome the fact that history is on the move in the Middle East and North Africa. Ma Obama, devo dire, ha costruito un caso in modo molto intelligente, un uomo metodico e un uomo paziente, sapeva che voleva organizzare una coalizione internazionale solida, sapeva di volere la copertura delle Nazioni Unite di una risoluzione non facile da ottenere, visto che sia Cina che Russia erano molto sospette dall'avallo di una protezione di giovani che potevano manifestare in piazza, e sappiamo quanto Pechino e Mosca siano ostili a queste dimostrazioni di libertà, queste rivendicazioni di libertà da parte dei giovani. Barack Obama voleva anche l'appoggio del mondo arabo. Dal mio punto di vista, il presidente in effetti fin dall'inizio ha seguito questo suo modello. Alcuni la chiamano la dottrina Obama, una dottrina dunque che prevede di creare i presupposti attraverso un'alleanza internazionale che poi coprano l'America dal pericolo di una caduta d'immagine nel momento in cui dovesse esserci un attacco o una operazione militare. Di fatto il presidente ha guardato in avanti, ha dato messaggi, soprattutto, secondo me, ad altri paesi. Il contagio di questo movimento democratico continuerà. Qualche giorno fa sono stato a una riunione a porte chiuse alla Brookings Institution e ho ascoltato come grandi esperti americani siano convinti che non si tornerà più indietro. Europe has really come together on Libya. Today's conclusions endorse the UN resolution agreed last week. They set out Europe's determination to contribute to that implementation of that resolution. David Cameron, il primo ministro britannico, ha parlato dopo una conference call, una chiamata a quattro: Barack Obama, la Merkel, David Cameron appunto, Nicolas Sarkozy. I quattro grandi si sono riuniti telefonicamente ieri, prima del discorso di Barack Obama, per discutere di Libia. Devo dire che è stata una mossa a sorpresa, non gradita a Roma, dal mio punto di vista non può essere gradita per l'Italia che alcuni paesi importanti, i nostri alleati, si riuniscano per discutere di un fatto che ci riguarda molto direttamente. L'Italia è proiettata nel Mediterraneo, è proiettata sulla Libia, conosciamo a fondo la Libia, abbiamo, come ci dicono le cronache, migliaia di immigrati illegali che arrivano sulle nostre coste, che sbarcano a Lampedusa, diamo le nostre basi militari e poi non siamo consultati. Il ministro degli esteri Franco Frattini ha detto tuttavia che il fatto che il governo di Roma non abbia partecipato a questa videoconferenza non rappresenta certamente, ha detto, uno schiaffo al governo italiano. Frattini è a Londra oggi per discutere proprio di Libia con i ministri degli esteri di altri 30 paesi, la più vasta coalizione, il più vasto raggruppamento che si è riunito nella crisi post-libica insieme ai rappresentanti del, diciamo, governo in esilio o comunque ai rappresentanti dei ribelli. Ecco, in questa situazione, da una parte il discorso di Barack Obama, dall'altra questa conference con la 4, poi devo dire trovo molto ironico che abbia partecipato la Merkel che si è astenuta dal voto alle Nazioni Unite per la risoluzione 1973, la Merkel che è stata punita dagli elettori, secondo me anche proprio per questa sua mancanza di decisione, che a un certo punto si rende conto che piuttosto che così farsi vedere con l'Italia su una linea più prudente è meglio schierarsi coi paesi più aggressivi. Io credo che dal nostro punto di vista, dal punto di vista del nostro governo, forse siamo stati puniti per una certa indecisione. Ci ha pensato in qualche modo a rispondere alla comunità internazionale davanti a questa situazione il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Italy will continue to ask the United Nations to be in the forefront. Il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle Nazioni Unite, lo avete ascoltato, ha chiesto che le Nazioni Unite continuino a svolgere un ruolo chiave sul fronte multilaterale, ma soprattutto il Presidente ha voluto dare un messaggio molto chiaro: l'Italia terrà il timone dritto, rispetterà il mandato delle Nazioni Unite, rispetterà la risoluzione 1973 e, se sarà necessario, farà tutto quello che gli sarà chiesto, come dire, al di là dell'utilizzo delle basi, al di là di quello che finora abbiamo dato come nostro apporto. Un messaggio, devo dire, molto chiaro, che ho chiacchierato poi con molti ambasciatori subito dopo il discorso, è stato accolto molto bene, con una certa sensazione, alle Nazioni Unite, soprattutto in questo contesto in cui il presidente Barack Obama ancora non aveva parlato, mentre si era avuta notizia di questo incontro a quattro che escludeva l'Italia. Napolitano in qualche modo ha riportato il nostro paese al centro, la nostra cultura, la nostra geografia, la nostra storia, ha detto, è ancorata al Mediterraneo e dunque continueremo a svolgere un ruolo molto diretto e in prima persona nella gestione della crisi libica. In the prevention of genocide, the fight against all forms of discrimination, the protection of minorities and in the elimination of religious intolerance. Qui sentiamo il presidente che, devo dire, parla in inglese, parla un inglese impeccabile. Per una volta un nostro politico viene qui, non ha bisogno di essere tradotto. Lo dico questo perché è imbarazzante quando abbiamo una visita di nostri politici italiani che arrivano qui, parlano in italiano. C'è bisogno di un traduttore, si perde un sacco di tempo, c'è grande imbarazzo. Questo non succede per altri paesi, non succede per i francesi, per i tedeschi, non succede per gli spagnoli. Insomma, gli altri paesi europei hanno dei politici che in maggioranza sono in grado di articolare un discorso in inglese con una certa facilità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Patti Smith, grande cantante, ormai una leggenda, sta lavorando a un sequel delle sue memorie raccolte nel libro Just Kids, un libro in cui racconta la storia della sua amicizia con Robert Mapplethorpe, un grande fotografo di Patti Smith, Because the Night. Give her tonight. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.